Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Luca Tremolada, sono le 16.09, Nova Lab 24, la voce dell'innovazione, lo ripetiamo, sono qui con Guido Romeo, buongiorno. Buongiorno. E insomma ci stiamo preparando a grandi falcate ad arrivare alla data del 15 dicembre, quando ci sarà insomma l'ONU del clima, Copenaghen, un momento importante di riflessione sul cambiamento climatico. Ci saranno posizioni politiche, ci saranno temi da approfondire, noi lo faremo avvicinandoci pian pianino con delle puntate tematiche. Questa in parte è una puntata dedicata al clima. È per questo che cominciamo a parlare, diciamo, dalla tavola, del cibo, insomma. Esatto, da quello che cominciamo, ci piace di più, esatto. Cominciamo mangiando, insomma, va bene, che a pancia piena si combatte meglio, come dicevano i marinai di Sua Maestà Britannica. Mentre il nostro Guido Romeo in pancia c'ha degli hamburger, anche perché viene dagli Stati Uniti, dove a Washington lui praticamente cosa ha fatto? Ha assistito a una sorta di war games sul clima, se non sbaglio. Mi stanno facendo dei gesti che se tocchi un'altra volta il microfono sono botte. Prego. Ho le mani legate dietro la schiena in bene. Questo momento, va bene. Allora, a Washington si diceva, dopo una bella T-bone steak, non erano hamburger ma erano T-bone, erano quelle belle bisteccone fiorentine americane, abbiamo incontrato un gruppo di persone molto interessanti, una think tank che si chiama CNAS, Center for National Security. Legali o illegali? Legali. Legali, bipartisan, quello che vuoi. Se, insomma, per dire la storia l'ho raccontata in parte già su Nova 24, e il punto fondamentale è che per la prima volta questi simulando degli scenari. Hanno fatto il primo war game. I war game sono le simulazioni che fanno, diciamo, quotidianamente a Washington. L'hanno fatto per 4 giorni centrato sul clima. Ecco, leggiamo alcune degli scenari che un po' avevi delineato. Non so, leggo io: la caduta di produttività agricola e la riduzione del pescato spingeranno molte popolazioni a migrare, con effetti simili a quelli che oggi vediamo in Darfur. Quindi, insomma, uno scenario drammatico. Ma sì, la cosa che sorprende poi è questa: loro hanno ambientato la loro simulazione con un centinaio di persone, team europeo, indiano, cinese, americano, l'hanno ambientata nel 2015, dicendo siamo dopo il rapporto del IPCC, insomma l'altro è uscito nel 2007, quindi sono passati altri 7 anni. Nel 2014 è uscito il nuovo rapporto, il mondo è molto più caldo, 2 gradi più caldi, eccetera. In realtà molte cose le stiamo vedendo oggi. Tu guarda, per esempio, in Kenya, in Etiopia, nell'East Africa c'è una siccità pazzesca, c'è un esodo di gente che parte, in parte arrivano anche poi sul Mediterraneo, li vediamo. Abbiamo arrivare. Visto nella cronaca. Purtroppo, appunto, queste robe arrivano nella cronaca. Che non è solo il pesce tropicale che trovi nel Mediterraneo, che insomma fa sempre. Ecco, quelli sono i pezzi che i nostri colleghi, che tutti dobbiamo mi stai scrivere. Dicendo che io mi occupo di sciocchezze alle volte, mi stai dicendo questo? Vabbè, lasciamo. No, lo scorfano leone di cui è scritto quest'estate è una questione serissima, lo riconosco. È bello lo scorfano leone. Cioè, poi fa male, cavolo, se ti becca lo scorfano leone sei finito. Ma in pentola è ancora più buono lo scorfano. È vero, c'è una storia interessante sullo scorfano leone, magari dopo la raccontiamo. Perché noi dobbiamo arrivare, cioè tutta questa chiacchiera per arrivare al cibo, perché quello che non sostengo io e il dottor Romeo, ma insomma che sostengono gli scienziati, già la puntata sulla scienza, è che sta cambiando per effetto dell'innalzamento della temperatura la produzione alimentare, cioè come verrà prodotto il cibo, in particolare l'agricoltura. E anche come mangiamo, e cambierà sempre di più come mangiamo. Il PROD Guido Romeo ha realizzato una scheda per insomma dare qualche punto di riferimento e per fissare qualche paletto su quello che sta succedendo. Prego. Un pianeta più caldo cambia prima di tutto come e cosa mangiamo. Il prossimo dicembre a Copenaghen, governi e scienziati discuteranno un nuovo accordo di Kyoto per la lotta al riscaldamento globale. Ma è nel nostro piatto che vedremo le prime e più visibili conseguenze delle temperature più alte. Innovazione e creatività stanno già rivoluzionando campi, pascoli e pesca. Ogni anno l'agricoltura consuma da sola il 70% dell'acqua dolce disponibile ed emette il 20% della CO2 liberata nell'atmosfera. L'aumento della richiesta di proteine nei paesi in via di sviluppo aumenta l'impatto di allevamento e pesca. Dall'Europa dell'Est al Sud America e all'Africa, molte aziende stanno investendo in nuovi terreni agricoli, ma per sfamare i 9 miliardi di persone che abiteranno la Terra nel 2050 non bastano nuovi campi. Come in tutte le rivoluzioni agricole, ci vogliono tecnologie e idee nuove. Quello che ci aspetta è una produzione più sostenibile, più open source e più attenta ai legami con il territorio e alle sue ricadute a lungo termine. In una parola, più verde perché più efficiente, ma anche in grado di rendere più vivibili le città in cui viviamo. L'americano Dixon Despommiers, ad esempio, ha progettato un grattacielo di 30 piani che è un vero e proprio orto verticale, in grado di nutrire 50.000 persone ogni anno, assorbire la CO2 dall'aria e abbassare di 2 gradi le temperature estive. E non è finita. In Asia, dove la popolazione sta esplodendo, c'è chi propone di far fronte alla riduzione del pescato con allevamenti di alghe e meduse, che potrebbero diventare una preziosa fonte di proteine. Niente più tonni e branzini, ma fritti misti di alghe e meduse per tutti? Niente paura, non mancano approcci più tradizionali, come ad esempio l'agricoltura di precisione che si sta già diffondendo in Europa e oltre Atlantico, che minimizza l'uso di acqua e concimi grazie all'uso di software e satelliti. A posto che la zuppa d'alghe se la mangia Guido Romeo. In effetti la mangio. Ecco, bravissimo, e siamo tutti felici per questo. 824-0024 se volete insultare Romeo direttamente in trasmissione, no, vi prego. 349-238-6666 se invece vogliamo tornare a discutere di alimentazione. E lo facciamo con Antonello Pasini in collegamento da Roma, e che è climatologo del CNR. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, noi cominciamo a mettere un po' i puntini su lei. Noi ci stiamo avviando verso un nuovo protocollo di Kyoto. Quali sono i temi caldi prima di arrivare poi al discorso sull'agricoltura? Prossimi caldi, vuole sapere? I prossimi caldi, sì, esatto. In certo, i prossimi senso, caldi sì. Sono quelli che stiamo vedendo con i nostri modelli che sono sempre più perfezionati, che riescono a vedere anche ormai quello che succede non soltanto a fine secolo, ma quello che potrebbe succedere nel prossimo decennio, nel senso che ora noi sappiamo i modelli per come sono fatti adesso danno una tendenza, quindi la tendenza sicuramente all'aumento, però ecco, per esempio, si possono vedere delle possibilità di pause in questo riscaldamento, per esempio per un decennio o 15 anni, insomma. Questo non vuol dire che poi però la temperatura non ricominci a crescere, probabilmente ricomincerà a crescere ancora più velocemente. Questo ovviamente è negativo per l'adattamento delle specie, soprattutto vegetali e animali, insomma. Ecco, ma Pasini, l'Italia dov'è in tutto questo? Perché noi siamo abituati a un clima temperato caldo, varie zone climatiche, ma andiamo a fuoco? Bolliamo nel Mediterraneo? L'Italia purtroppo, diciamo, per fortuna, si trova al centro del Mediterraneo, che tempera, appunto, che mitiga la temperatura e tutto il resto di clima in Italia. Il problema è che però il Mediterraneo è molto vicino in qualche modo a quella che si dice zona di convergenza intertropicale, cioè siamo al limite con i tropici, e quindi basta uno spostamento di un paio di centinaia di chilometri di questa linea perché il Mediterraneo risenta di siccità, di aumento di temperatura più elevato che in altre zone e così via. Quindi, insomma, il Mediterraneo e l'Italia, in particolare quella centro-meridionale, è quello che noi chiamiamo un hot spot, un punto caldo, insomma, perché è particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. Ecco, hot spot, ma che cos'è? Su quali fronti si rischia di più? Ma sui fronti degli impatti, ovviamente, perché insomma il riscaldamento climatico di per sé di un grado, due gradi o tre gradi non è un problema, perché l'aria è più calda di un grado, due gradi. Il problema è sugli impatti sui territori, sugli ecosistemi e sull'uomo, quindi in particolare sui sistemi produttivi come l'agricoltura, per esempio, insomma. Quindi è chiaro che in questo senso una diminuzione delle precipitazioni, un aumento della temperatura e può avere dei problemi importanti. Cioè, quello che Pasini sta dicendo, da qualche parte nel mio curriculum c'è una laurea in agraria, quindi mi viene in mente che diminuzione di precipitazioni alla fine vuol dire terreni più salini, cioè più difficili da coltivare con piante che magari non ci crescono più. Però non è che ci vuole una laurea in agraria per dire che se piove meno, cioè va bene, prego, mi dica i sali principali che si concentrano nel terreno, tremolata. No, prego. No, ma questo lo vedi, Pasini, perché se non deve esibire il curriculum non andiamo da nessuna parte. Ma questo in realtà lo vediamo con qualcuno che ha molto più curriculum di me più avanti. Il nostro prossimo esperto che tu annuncerai. Comunque meno pioggia, quindi meno terreni più aridi da un certo punto di vista. No, meno pioggia vuol dire meno acqua per le coltivazioni, però vuol dire anche un effetto che non è soltanto limitato al momento della precipitazione, cioè alla riserva di acqua, ma proprio un cambiamento del terreno, quindi delle caratteristiche di medio-lungo termine del terreno. E questo forse è la cosa più pericolosa, cioè quello che si vede in Darfur è che molti terreni non sono più coltivabili e quindi i contadini partono e emigrano, ecco. Pensare che anche l'irrigazione ha i suoi limiti, insomma, come diceva lei giustamente, se l'acqua non è completamente pura, dopo un po' l'irrigazione non ce la fa più, nel senso che le falde si salinizzano e quindi per effetto delle alte temperature l'acqua evapora, rimane il sale nel terreno, nelle falde, e quindi insomma come Attila spargeva il sale sui campi e lì non cresce più niente, insomma. Ecco, mi tolgo una curiosità, perché il CNR, insomma, tutti coloro che si occupano di clima, voi siete chiamati a esprimervi su questi temi, nel senso che al di là del fatto che noi ne parliamo abbastanza quotidianamente, lo scriviamo sui giornali, siamo anche interessati al tema del clima, però le associazioni di agricoltori eccetera chiedono un supporto per capire quanto e che impatto avranno questi cambiamenti su quello che è il loro lavoro. Secondo me all'estero c'è molta più sensibilità su questo tema, in Italia ancora no, nel senso che per fare progetti di sviluppo di colture agricole e così via, io credo che il tassello principale di un progetto di questo tipo sia quello di vedere qual è lo scenario climatico con cui andiamo incontro, perché insomma è inutile mettere una coltura che poi non è più sostenibile perché non è adatta al clima che cambia. Quindi ecco, questa maniera dinamica di vedere le cose a mio parere in Italia non è ancora così sentita. Insomma. Ecco, noi abbiamo in collegamento un ascoltatore, Marco da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Niente, io dicevo semplicemente una cosa, che in realtà magari io la faccio troppo semplice, nel senso che ho 32 anni, quindi vedo il mondo un pochino più rosa. E secondo me... Per fortuna. Fino a quando l'uomo non cambierà le proprie abitudini, che secondo me la sfida... è quella, più addirittura di più di quello che può essere un cambiamento climatico. Secondo me non c'è tecnologia che tenga, ecco, perché per quello che è il riscaldamento del pianeta, secondo me si parla sempre in prospettiva di un mondo che sarà comunque sempre un mondo industriale. Quindi abbiamo bisogno di, non so, un piccolo spazio che nutra, non so, 200 miliardi di persone, il che a mio avviso è impossibile. Grazie. Poi noi nella seconda parte della trasmissione appunto affronteremo proprio il tema delle tecnologie per l'agricoltura. C'è Guido Romeo che però vuole rispondere. No, il nostro amico da Bologna ha detto una cosa molto importante. In realtà l'ultimo libro di Jared Diamond, che tu sicuramente ricorderai per Armi, Acciaio e Malattie, l'ultimo libro invece è Collapse, in cui lui mostra come anche le società tecnologiche più avanzate sono sviluppate là dove c'era una società agricola forte, e quando è venuta a mancare la base ambientale che permetteva l'agricoltura e quindi il sostegno, è collassato. È successo agli imperi del Mediterraneo, ai babilonesi, è successo ai Maya, è successo un po' in tutti i continenti, è successo in Asia, in tante città. Non si vede perché, ed è molto chiaro che può succedere ancora nel nostro moderno moderno mondo ipertecnologico. Anzi, forse oggi più che mai, mi sembra di capire, visto i 9 miliardi di persone che dovranno sedersi a tavola. 9 miliardi e non solo. Tu pensa che ormai più di metà di quelli che oggi sono 6 miliardi e mezzo vivono nelle città, e la maggior parte, più del 70%, vive sulle coste della, su quelle che sono le coste, le zone costiere, che sono le zone tra l'altro più sensibili. C'è un ascoltatore che in tempo reale ha cominciato a dire: ma non dovremmo parlare di controllo delle nascite? Cioè, già questo spaventa, insomma, un passo alla volta. Michele da Firenze, buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno. Volevo dire questo relativamente al problema delle precipitazioni che si stava appunto accennando poco fa, e anche perché è un problema che spesso viene richiamato dai mass media in modo importante, ma che, se visto in modo assoluto e non relativo, certamente comporta qualche problema nel individuare quelle che potrebbero essere delle strategie di risoluzione. Le faccio solo un esempio: io sono un tecnico, sì, mi occupo di agricoltura, in un terreno che oggi ce n'è pochissimi, che hanno una dotazione in humus ormai praticamente inesistente, quindi lei consideri uno 0,5 di humus, e il fabbisogno di acqua potrebbe per alcuni tipi di coltivazioni risultare il doppio. Ma infatti questo è un tema centrale, cioè quanto il terreno può assorbire, quanto si riesce a dare acqua al terreno. Tra l'altro non c'è solo la chimica, ci sono proprio delle tecnologie in supporto. Certo, certo. Quindi la gestione del suolo è centrale rispetto a quella che è poi la gestione del fabbisogno idrico. Perfetto. Ha una domanda o... voleva sottolineare questo aspetto, insomma, dell'ecosistema. Perché nella mia professione, applicando dei metodi, diciamo, naturali, vedo nel giro di 2-3 anni passare sempre il contenuto in humus da 0,5, faccio per dire, al 3%, e si hanno delle risposte in termini di gestione idriche che vanno con risparmi anche del 50% sulla bolletta. Ecco, questo è un... Va bene, grazie. Ecco, noi torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione, anzi presentiamo subito l'ospite. Noi abbiamo anche in collegamento Michele Stanca, docente di miglioramento genetico dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, noi torniamo brevissimo e torniamo con lei per capire bene che cosa fare, insomma, che cosa sta entrando nel nostro piatto, perché insomma adesso abbiamo visto il quadro di insieme, e il quadro di insieme indica che il clima sta cambiando, e quindi stanno cambiando anche il modo di affrontare il terreno, il modo di mettere in pratica le coltivazioni, per cui adesso vediamo anche di capire se ci sono delle conseguenze sulla nostra tavola. Nova Lab 24. Luca Tremolada al microfono, sono le 16.33, stiamo cercando di dare delle risposte fondamentali per il pianeta. Scherzo, ci stiamo occupando di cambiamento climatico e alimentazione, stiamo cercando di capire come e quanto cambierà il cibo nel nostro piatto per effetto del cambiamento climatico. Se volete capire con noi cosa sta succedendo, 824 0024. Gli sms 349 238 6666. Ed è proprio un sms che si domanda: ma se vogliamo veramente salvare il mondo dalla fame, dobbiamo, afferma, diventare tutti vegetariani, ovvero non usare i cereali per nutrire gli animali da macello, ma nutrirsene direttamente. Questa, insomma, domanda la giriamo a chi la giriamo, Romeo? Direi che la giriamo a Michele Stanca. Anzi, ma allora la domanda è: dobbiamo diventare tutti vegani veramente e abbandonare le proteine e passare solo a una dieta alla fibra, dicevo, alle fibre. Beh, magari anche un po' di calorie, cavolo, solo fibra è un po' dura, Stanca. Devo rispondere? Sì, prego. Grazie. Bene. Ma io non ci credo, ognuno può fare quello che vuole, l'importante è che si produca cibo ben equilibrato per un'alimentazione, non dico perfetta, ma quasi per tutti gli esseri sul pianeta Terra. La disponibilità di terreni con l'introduzione di nuove tecnologie cominciano a dimostrarci che questo è possibile, quindi possiamo garantire cibi di alta qualità per tutti. Ecco. Siamo bravi a saper coltivare e a introdurre le nuove tecnologie con serietà. Ecco, se siamo bravi, dice lei, sì. Lei tra l'altro è docente di miglioramento genetico, che cos'è che vuol dire esattamente? Perché... miglioramento genetico significa applicare tutti i principi della genetica per ottenere una pianta superiore o una pianta adeguata alle esigenze della nuova società. Ecco, quali... non so se è stato, se è chiaro il concetto. No, è molto interessante, ma a questo sì. punto ci ha ingolosito, cioè è una sì. pianta che sappia resistere o pronta a resistere, sì. cioè che tipo di pianta stiamo parlando? Possiamo parlare di una pianta che è capace di utilizzare al meglio l'acqua, per esempio io posso dire ad una pianta, senti, se io ti do una molecola di acqua, quante molecole di anidride carbonica sei capace di mangiare dall'atmosfera? E siccome con l'anidride carbonica si fa tutto, la pianta è capace di fare tutto, noi siamo dei sottosviluppati dal punto di vista evolutivo, le piante sono molto ma molto più avanti di noi perché mangiano la CO2 e ci danno zuccheri, proteine, quello che ci serve. Guido. Ma professore, la domanda che Tremolada sta cercando di farle, ma non gliela vuol fare, è: ma il miglioramento genetico significa anche OGM? Cioè diventeremo vegetariani, anzi vegani che mangiano solo OGM? Ma questi vegetariani, chi vuol fare il vegetariano lo può fare, chi vuol mangiare una bistecca alla Fiorentina? Non si arrabbi, non si arrabbi. In grado di produrre anche bistecche alla Fiorentina. Certo. Diciamola questa cosa, perché no, ci sono dei vegetariani. Fermamente questo. Ecco, però quello che io vorrei capire è che voi all'università, in un certo senso, avete in agenda il fatto di trovare delle soluzioni genetiche o di chimiche per rendere le coltivazioni pronte, adatte al cambiamento climatico? È un tema oppure non vi state occupando della questione? Beh, ma è la prima cosa. Quando si entra in un laboratorio la prima cosa che si dice qual è il fattore limitante, il collo di bottiglia per il prossimo futuro, per i prossimi 20 anni sul pianeta Terra, la prima cosa che salta in testa è di ottenere piante capaci di utilizzare al meglio l'acqua, di far fronte ad eventi drammatici come possono essere le basse o le alte temperature, l'aggressione di nuovi e sempre più evoluti parassiti, sia essi di natura virale che di natura fungina o anche gli stessi insetti, e quindi quando si parla oggi della pianta la si vede sotto tutte queste sfaccettature. E l'ideale qual è? Uno si disegna la pianta ideale e dice i figli dei nostri figli dovrebbero raggiungere questo disegno fondamentale, che è quello di inserire tanti geni insieme all'aiuto dei fisiologi, all'aiuto dei patologi, all'aiuto degli agronomi per fare la cosiddetta pianta del futuro. Perfetto. Per questo tipo di, siccome mi avete fatto una domanda precisa, se noi ci stiamo interessando di queste cose, quando si cominciò a parlare già negli anni, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, di queste situazioni della disponibilità di cibo sul pianeta Terra, dell'aumento delle temperature, dell'aumento principalmente della CO2, la prima cosa che si è messo in cantiere per esempio è andare a vedere se in un tunnel super controllato, aumentando la quantità di CO2, passando, raddoppiando la quantità di CO2 presente oggi nell'atmosfera, che è di 3,7 370 parti per milione, arriveremo a 600 parti per milione, arriveremo. Che cosa succederà con una pianta? Beh, succedono tante cose. Ecco, professore, la interrompo un secondo perché abbiamo una domanda da Roberto dalla provincia di Firenze. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Voglio sottolineare l'importanza del controllo di qualità chimico delle acque, anche in chiave agricoltura, per esempio per il riuso delle acque reflue che possono essere riutilizzate in agricoltura senza andare a consumare acque vergini, quindi acque di prima fornitura. E vedo che nella mia esperienza, io opero nel settore, c'è molto, un interesse molto scarso per questo tema, che ritengo invece centrale nel momento in cui si vuole fare una politica, certo, ambientale a 360 gradi, che a mio avviso non viene fatta, per sottolineare l'importanza di farla. Assolutamente, su questo siamo assolutamente d'accordo. Tra l'altro adesso faccio arrabbiare Guido Romeo, perché stanno arrivando degli sms, due, in cui insomma ci si lamenta, ma si domanda Salvatore da Pordenone, ma ancora con il riscaldamento globale, ma ci crede ancora qualcuno? Rispondiamo, cioè, anzi, facciamo rispondere Antonello Pasini, che è climatologo del CNR. Allora, c'è ancora questo problema del riscaldamento globale? Io non credo che si tratti di credere o di non credere. Uno può credere o non credere a un oroscopo o qualcosa di questo tipo. Qui si tratta di confrontarsi con dei fatti, con dei dati di fatto, non soltanto con i modelli, ma anche con quello che c'è stato in passato, che noi sappiamo da osservazioni dirette e indirette. Quindi io credo non ci sia da mettere in discussione il riscaldamento globale, così come non ci sia da mettere in discussione il fatto che il fattore antropogenico è quello che ha creato fondamentalmente questo riscaldamento nell'ultimo secolo. Poi uno può anche non credere ai modelli, può dire che i modelli sono imperfetti, però insomma l'esattezza, diciamo la certezza, non è un concetto scientifico. Un concetto scientifico è avere la migliore approssimazione possibile in un dato momento storico, ed essendo consapevoli delle barre di errore che ti dà questa approssimazione. E noi attualmente abbiamo un'approssimazione che ci dice quanto dicevo prima. Insomma, Guido, cioè la temperatura è oggettivamente sta salendo. Le cause, si può discutere sulle cause, si possono avanzare delle ipotesi, però il tema di capire le conseguenze di questo innalzamento della temperatura è un tema politico. È un tema eminentemente politico, come diceva Washington, stanno facendo i war game sul clima, cioè questo vuol dire che il cambiamento climatico viene misurato in termini di sicurezza nazionale, quindi non è più una cosa succederà o non succederà, sta succedendo, il punto è cosa ne facciamo. E tra l'altro anche Copenaghen dimostra che l'interesse per Copenaghen, quindi l'interesse per questa nuova ONU sul clima, va oltre alla prova scientifica, è anche un modo per buttare giù una sorta di piano operativo. Assolutamente, ma tra l'altro i cinesi, che fino a pochi anni fa scantonavano sui temi delle emissioni del riscaldamento, hanno riconosciuto che è qualcosa che vogliono affrontare, vogliono essere in prima linea i leader, anzi tra i leader delle soluzioni. Ecco, tra l'altro le prime soluzioni, invece, per tornare su un tema appunto più piccino, cioè tra le varie reazioni a questo stato di cose c'è quello dell'orto in città, che è una cosa curiosissima. Dell'orto in città, questo è, bene, parlavamo prima nella scheda con De Pommier, l'agricoltura cittadina era qualcosa che abbiamo visto durante la seconda guerra, che sta tornando anche grazie a dei sistemi di incentivazione. Per esempio in Canada, a Toronto, c'è questo sistema di finanziamento dal 2008 dei tetti verdi, che li aiuta a mitigare la calura estiva, che però sta diventando anche un modo per trovare incentivi per piccoli appezzamenti cittadini, il che ha un beneficio sul microclima cittadino, ma anche perché accorcia quello che è, i chilometri del piatto, cioè quanti chilometri ha il tuo piatto, da quanto lontano viene quell'insalatina di rucola che mangi. Tra l'altro su questo tema faremo una puntata, nel senso che di fatto se ne sentono di tutti e di più, cioè l'insalata che è anche bio, però se viene dall'Australia chiaramente costa moltissimo in termini di emissioni di CO2. Allora, che non sono conteggiate, perché le emissioni degli aerei non sono conteggiate ancora nel vecchio schema di Kyoto, quindi è un rompicapo da cui non si esce. C'è però un dato di fatto che insomma le cose sono cambiate e stanno cambiando sempre con più forza. Noi siamo in chiusura di trasmissione, nel senso che ringraziamo Antonello Pasini e Michele Stanca. Nova Lab 24. Nova Lab 24. $3.4 miliardi è la cifra destinata dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama per sostenere la creazione di una smart grid per l'energia. Il piano prevede la creazione di 18 milioni di metri intelligenti di rete attraverso l'installazione di 700 sottostazioni automatiche e 200.000 trasformatori intelligenti in 49 stati. La rete intelligente, secondo l'amministrazione USA, ridurrà gli sprechi, i blackout e faciliterà l'integrazione delle fonti rinnovabili. Dall'Information Technology Innovation Foundation arriva la classifica mondiale delle bande larghe, che mostra velocità e costi della connessione a internet in 20 paesi. Numero 1 il Giappone, dove la velocità media del collegamento è di 60 megabyte al secondo, al costo di appena 0,27 dollari al mese per megabyte. Gli USA solo quindicesimi con 4,8 megabyte per 3,33 dollari, mentre vanno bene paesi europei come la Svezia con 18 megabyte al costo di 0,63 dollari e la Francia con stessa potenza per 1,64 dollari. Italia per ora non menzionata. Un'applicazione iPhone letteralmente spaziale e gratuita. È quella sviluppata dalla NASA e scaricabile nell'App Store di Apple. Con questa funzione gli utenti potranno conoscere nei minimi dettagli le missioni dell'Agenzia Spaziale Americana, da quelle in corso sulla Stazione Spaziale Internazionale a quelle del progetto Constellation, che dovrà sostituire gli Space Shuttle. E eccoci tornati, Luca Tremolato e Guido Romeo. L'iniziativa. L'iniziativa è quella: scriveteci, noi abbiamo moltissimi canali, la mail è novalab24@radio24.it, Twitter che è twitter.com/novalab24 e la pagina su Facebook per segnalarci i micro cambiamenti del clima e per chiederci anche quello che volete sapere di questo tema. Un'iniziativa di citizen reporting ambientale, insomma, cittadini giornalisti. Sì, sì, noi portiamo, è un po' come quando si va alle feste, noi portiamo gli universitari, voi portate gli universitari, i professori, gli intellettuali, insomma, purtroppo abbiamo tutto questo mondo modo di dire, insomma. E voi portate le domande, per cui insomma facciamo incontrare la domanda e l'offerta, vediamo cosa ne esce, poi ci dite se siete soddisfatti delle risposte che avete, perché... E si vince una birra? E si vince niente come al solito, però tanta gloria, tantissima gloria. Io vi saluto, vi ricordo il tema della puntata di domani insomma parleremo di automobili da corsa, di computer che simulano automobili da corsa e di super computer che ci permettono anche di risparmiare e di uscire dalla crisi. Insomma, una puntata tutta da ascoltare, mentre Guido Romeo lo ritroveremo la prossima settimana. Ciao, a presto. A presto. Clicca linear.it ed entra nella tribù. Linear, assicurazioni in linea con te. Vi ha presentato Nova Lab 24.